se si è sfigato, è così. No, io le ho avute quasi sempre nuove le macchine, perché io le utilizzo per andare a lavorare, devo viaggiare, quindi mi serviva una macchina nuova che mi dava sicurezza nel viaggio, eccetera, no? Una macchina seconda mano magari ti si ferma in mezzo carriera, secondo me è una macchina truffi, yui. No, le ho avute sempre nuove, tranne la 500, la prima che ho preso, che era un 595 Giannini, che faceva anche le gare, e niente, poi le note 50 che mi aveva dato una suocera, poi se ne altre, ne ho avuto già 13 macchine, tutti qua. E la cosa ho pure le macchine, la sta bella, ne ho avuto le macchine io, però grazie a Dio problemi non me ne hanno mai dato. Vabbè, sei stato fortunato, sono quelle che sono difettose, le vendono a seconda mano e poi il problema non hanno a te. Come invece, se la macchina è nuova te la fanno in garanzia, io per dire la mia macchina quando l'ho presa aveva un difetto, si accendeva da sola l'aria condizionata. E poi non mi funzionava la pennina USB ed era dalla centralina, l'hanno cambiata, gli hanno cambiato la centralina e la parte della strumentazione dove c'è conta il chilometro, tutto qua. Guarda, la mia, io ho preso una Toyota Yaris del 2005. Io quando l'ho presa, l'ho presa da una signora che ce l'aveva 8 mesi di ferma nel garage, perché lei ci aveva preso una 500 euro e il marito non voleva venderla, e poi alla fine si demola, alla fine me la data. E guarda, questa macchina qui dentro è nuova, lei fuori aveva qualche mattatura così dal sportello giure, però la macchina, anche il motore guardato, è perfetto. Sì, se sono così, che sono un po' usate, allora va bene. Per comprare una macchina seconda mano dovessi prendere un aziendale, quelle aziendali le usano chi ci lavora lì, se trovano difetti li rifanno e le fanno andare bene. Quando le vendono sono perfette quelli lì. Le paghi un po' di più, un bel po' di più, perché ti sconteranno 2000 euro dalla macchina nuova. Però sono come se fosse una macchina nuova. Guarda, quella che sta lunga è una Mazda, è un 800 cilindrato, un 6 cilindri. Quella lì non consuma un cazzo, quella macchina lì c'era uno che si è fatto roba di 400-500 km con quella lì e non gli ha mai dato problemi, facendo sempre tagliando regolarmente, cambio le ruote e tutto quanto, cinghia, e andava sempre bene. Io ho visto una me da poco, come la sua, nuova, riverniciata da testa a piedi. Mia Cicomi, noi. Oi, noi. Ciao Gianni. Dove sei, Manuè? E di sopra, a casa. Ciao, come radio? E come segnale? Ah? Sei bassino, segnale radio. E cazzo, gli arruggiai, sto bassino. Dove andate con la montessa? Ehi, dai, comunque, a me bene mi ricevi. Ehi, a Vudia. Ehi, io. Già. Ciao Tori. Stavi parlando, sono tanti punti, stai parlando con Manuè. Tu hai fatto uno scambio, hai detto che si riesce a basso, dai, ti hai pigliato un visto che si fosse, glielo grido. Dai, più là già usciamo bello bello forte come prima con lo sciure, dai. E ancora non l'hai fatto l'attacco? No, non va bene, non lascia perdere, non va bene qua l'attacco, perché mi innesca. Ci sarà da mettere due fili parallelo. Ho provato mille maniere, mi sono stancato, lascia perdere. Quando ritorna Gigetto qua, attacchiamo da lui. Chi è Gigetto? Gigetto è Gigetto, guarda che non si è serio. Ma è nuovo le ordinate? Noni. E magari conoscendoti, cambi, vendi, fai, magari te ne ordinato uno nuovo. Io faccio sempre da bravo. Interessante è quello, fai da bravo, comprati baracchini, ma fai da bravo. Ma noi, ma oggi non trabacchi? Manuel, va, a mangiare. Ah, salsiccia. Manuele! Beh, ma tu sei compito, ma che ti la portatella. No, dai, che stavo scherzando, ma ti pare fosse la baghetta a mozzarella. Me l'ho fatta stamattina. E ti hanno fatto una fotografia a Vaniella, me l'hanno mandata. E quando? E un po' palazzo te l'ha fatta. E chi l'ha fatta la fotografia? Come? Ma senti questa voce pio pio. No, non Santiago 3, però non ce l'ho messo. Beh, avanti, chi vuole entrare su 10? No, niente. Chi è che ha fatto la foto? Chi è? Ah, che sto scherzando, non è vero. Perché mi ci va a stare e non mangio la tagliata. Io mi nascondo. Te l'ho detto perché tu hai detto che non avevi mangiato, per fartelo dire. Oh, ai ai. No, comunque. Io me la faccio in macchina, non vedo nessuno, tocco la bollica, metto tutto dentro, io quanto è buono. E la macchina si sta sporca di briccio, eh? E già posso aspirare polvere poi. No, in macchina non mangio nulla, me ne esco fuori, prendo il coltello, non resto più facendo, la verità. L'altro giorno ho fatto una di quelle colazioni, mamma mia. Sì, ma vorrei vedere a te, io uscito fuori dalla macchina per sporcare la macchina, davanti alla niente, ma niente. La baguette con la mortadella, no? Ah, io so cosa faccio, allargo la carta, no? La metto sul sedile e con lo sportello aperto io sto in piedi e lo faccio dentro la macchina, quindi non vedo un cavolo. Se tu non c'hai arte facendo le cose. Aspetta, anche io faccio così, un attimino, ma poi quando ti mangia, non mangia in macchina e mangiamo anche al pubblico. Vabbè, che male c'è mangiarti un panino da pezzo? Vabbè che quando una baguette di vagonia c'è che male. Quello non è un panino, è una baguette. Non la giù preso. Ah, tu ti la fai a tocchetti, se la fai a pezzi piccoli e piano piano te li sbuffi. Va bene. Ui. Beh. Cosa per Natalino, ma ho avuto degli impegni, infatti domattina faccio l'impegno, come mi libero passo e gli do quella questione. E la terra di nuovo in mezzo al casino, si sta disturbando di nuovo. Sta disturbando di nuovo? E allora, è entrato incazzato nero l'altro giorno. Io addirittura butto la terra e un'altra camicia, tanto trovaggio e banuta. E io sono i tigli, io sono sta ciambando l'antenna, la l'antenna nuova, la munisce, non se la busa. Sono passato di salire la prima. Cosa vuol dire? Marco Mari, io so quei nonchi lontani, in campagna, e non disturbo nessuno, ho provato con Roberto, ho provato con Fabianco, nulla, non disturbo nessuno, meno male. Io disturbo, sto a letto. E beh, a te diciamo di fare, ma niente ieri. Sì, stavo aspettando per il tassi. Ma oggi non trabacchi, ma dov'è? Ma oggi sono a riposo, non mi manca le condizioni che mi posta, mia vita. E te, bravo figlioccio mio, però quando devi affittare, affitta pure papà padrino. No, dimagrito, 20 kg dimagrito, Vai, Pauraggio, vai. Il pantalone mi stai lasciando da solo. Sì, sì, dillo a tutti. Tu la rigridi già. Quando vai con Pigrino? No, io lo so già, è diventato Paciovilla, Marimucco, tutto ciccione. Oh, Eia, quando mi sono tolto a giro il cazzo, tu c'è la nighetta, la mazza. E non mi piace la salsiccia, io c'ho una ragione, la salsiccia mi si ingrassa. Ho capito, sta in farmacia, adesso si prega di salire una alla volta. E te? A proposito, io devo parlare in farmacia, c'è la mia medicina, gli ordinati me devo far arrivare, ma vado domani mattina. Anche io devo andare in farmacia, devo ritirare sia tutto l'ambaradam per la glicemia e in più tutte le medicine che ho ordinato. Mi arriva se tramite me, devo passare a me cazzo, ci vado domani, con calma. Dopo però che devo andare prima all'ospedale perché devo accompagnare un vecchietto a fare delle visite, eccetera, eccetera, quando ho finito con lui e poi ritiro la roba mia. Sì, ma è Luca il primo che ti danno il materiale, non te lo danno adesso. Che cosa? Il materiale, gli aghi, quella roba lì devi riuscire. E io vado quando voglio, giorno 1, giorno 5, giorno 10, 20, quando voglio io, vado e me lo ritiro, me lo danno. A me danno, solo il primo, se non è il primo non te ne danno. No, no, a me qualsiasi giorno io vado me lo danno, ho già. È il primo di ogni mese che si dovrebbe ritirare, così la legge, poi se te lo dà a te perché ti conosce. No, no, no, no, no. Io ho fatto sempre così, sono già la bellezza di 8 anni che ho fatto aprire e ritiro sempre così, capito? E così, perché se vado domani non me ne dà perché devo ritirare il giorno 1, ma stiamo scherzando. Così era la mia farmacia, pure non lo so se gli altri fanno diversamente, non lo so, però nella mia è così, se non è l'1 dico no, no, ancora non li può ritirare, deve ritirare l'1. No, no, no, no, no, io ritiro quando voglio io, senza avere voce. Senza dopo niente, anche Marco Ciocco. Io 10 ne ho ancora qualche d'uno e quindi me ne ritiro come dico io. Ma io di questa roba ne ho parecchio, non so se te l'hai detto Natalino quanto ne ho. E ne ho anche io, ma già serve perché poi magari devi portarla da un'altra parte, cose ce ne hai, capito? Vabbè. Io perché molte volte non la misuravo spesso, capito? Io avrò aghi 3.000 per insulina e striscette ne avrò 1.500 e poi devo ritirare ancora. E tu che cazzo? Oh yeah. Ma di un della labirintite, cazzo, come mi alzo ho fatto l'equilibrio, oh via, sono accorto. Come mai? La labirintite, come ti metti a posizione, ti metti nel letto, c'è un liquido nell'orecchio che è praticamente un gel, tipo un gel, che tiene l'equilibrio del nostro corpo. Secondo come ti posizioni, questo liquido si muove e ti fa perdere l'equilibrio. Lo so che abbiamo il liquido, infatti sulla nave non c'è mare mosso, a me fa venire cane butta che si muove il livello, diciamo, di questo liquido delle orecchie. Però ripeto, io come sono tranquillo, mi alzo, mi inizio tranquillo, non perdere equilibrio. Manuel, a te che cose succedi, no? Ma di qualcosa, non stavo seguendo. Ha detto Gianni che lui quando si alza perde l'equilibrio perché siccome nell'orecchio aveva un liquido, quindi sono a livello, se va a dislivello tu perdi l'equilibrio. No. Ok. Va bene, anch'io ho già comunque. Però meno, per adesso no, mi auguro che non succederà mai. Ma può succedere, secondo la posizione che è nel letto. Ti dà questo problema, hai capito? Già, me l'ha già spiegato il dottore che non è niente, già ti passa, è una cosa che passa, non è che sia, poi come ti alzi riacquisti subito tutto l'equilibrio, però appena ti alzi sembra embriaco. A me non succede perché ho la terza gamba che è troppo grossa e mi tiene proprio tre gambe. Ma cosa te ne fai? Se è mole non te ne fai nulla. Cosa? Se è mole non te ne fai nulla. Guarda, se vuoi ti mando la foto, che me l'ho fotografata l'altra volta, ho detto quanto è bella, mi sembra che faccio un quadretto. Ma c'è me la foto. Una cappella, questa è una basilica. Io sono sicuro già, se ti mando la foto ti innamoreggi. Sono stato sempre contrario a queste cose. Dai, comunque quando c'è una bella questione e anche soddisfazione, dai. Per lei c'è una soddisfazione, per me no? Per me sì, perché sono contento, lì piace, quindi. Non è molto grande, mia, 15 centimetri, capito? È una bella circonferenza, bella grossa, quindi già va bene. Tu pensa, Manuele, ho fatto anche la foto, che bellina. Guarda la mia cicetta, guarda. Tu pensa che a me l'ho fatto fare la riga e mezzo. Cosa l'hai fatto fare? La riga e mezzo. Ma te l'hanno fatta col coltello? Aspetta lì, ti mando la mia, visto che facciamo le sfide, guarda su WhatsApp. Ascolta, tieni d'accordo, pure te ci chiama anche in paracqua. Ciao Lu. Ma sto mandando tu perché ti chiedi come fu nella baita. Oh, mica te la mando anch'io, ce l'ho anch'io la foto qua con la mia piccinuccia lì. E tu ridi, ridi, anzita, sgumande, anzita. Vai, dai, te la mando in diretta, vai, la baita. Guarda su WhatsApp. Ma io sono Sendumi, non ho compreso. Sono su Gui, e tu lo dici. Vai, ma aspetta, adesso ti faccio vedere la mia, fammi togliere la mia, aspetta. Lasciamola anche a Gianna. No, ma io guarda che dopo il bagno fai bene la figura che se e mentre ci sei cosa. Una cinco gli ho mandata. A chi anni? A cinco. Ah. Cazzo, ma cazzo la faccio il ciccolo. Ma è quello che ti fa venire la vincita, lo sa anche il tuo ciccolo. Allora, Luca, la sto mandando e a Gianni. Vieni qua! Ma le guardo io, mi fanno schifo queste cose. E cosa c'entra? Dai, di un amico, sono a guardare, basta, cicchetta. Oh. E sono io che si vede anche il cane vicino ai piedi miei. Guarda quanto è bella, raga. Luca, e chi si asciughi io, mi? Invece quella di capo. E la sto mantenendo perché sennò se ne va tutta su, poverina. Comunque mi hanno detto che già è belluccia la mia, dai, corretta la crema. Manuela, la vuoi anche tu? No. Manuela, la vuoi anche tu? No, pacca la mia. Dammi la pacca la mia, sì, ma te, alla giusta. Gianni, va, Gianni, ho la vista, si è spaventato. Ma sta pensando anche lui. Ma io già. Fatela anche tu, dai, vediamo chi ce l'ha più grossa. Allora, io mi disciuccio. Cosa già? Mi disciuccio. Dai, aiuto, dai, fatela anche tu, fa vedere, dai, a chi ce l'ha più bella. La mia comunque è bella, dai, lo dico a tutti, non è che lo dico io, ma perché è mia, è ovvio che me la devo vantare, ma a me mi hanno sempre detto che è belluccia. Luca! Dai, io sto andando a recuperarmi dei soldi con l'avvocato, ci sentiamo alla prossima. Allora per i soldi sì, Luca, corri correndo, che prima di là, giustamente. Ok. Va bene, ci sentiamo, ciao, stammi bene. Beh, pochi maletti, subito no, comunque, vabbè. Ciao, ciao Gianni, ciao Dinko. Ciao Tony. Ok, ciao Luca, stammi bene. Ciao ciao. Chico! Beh, cosa stai mangiando? Riprendi già. Gianni. Comunque lo cancellate, dai. Così non ce l'avete più. Poi, Manuel. Beh, non ripeto. No, non stavo aspettando. E te, ce l'affettendi. Gianni. Cazzo, si è fatto così. Aperto, ha visto la foto mia perché c'era i baffetti azzurri. Ha visto il mio pizzoletto, si è spaventato. Hai visto già che belluccio, eh? No, gliel'ho cancellata subito poi, perché ripeto, no. Un attimo, poi uno se la vuole fissa, mi deve pagare. Grazie, sono venuta io. E quella cosa, perché a posto? Non ti ho capito, Manuel. Tutto a posto, quella roba di dell'affitto. Alza la voce. Tutto a posto, quella roba di dell'affitto. Dell'affitto? Ma della casa? Ma posso un cacchio. Aspetta quando arriva il panettone che lì ci mette la voce. E dell'altro, che è dell'anticipo. Dell'anticipo? Ehi. Quale? Dell'altra casa. No, dell'altra casa, no, quello lì è tutto, ci ha trovato i soldi, niente da fare. Perché lì qui non se n'è andato e adesso è nero, anche quello lì è un casino. Per carità, guarda. Niente, sto sempre cercando, se trovo. Tanto so già che il giudice non mi manda via. Mi fa fare il contratto 4 anni e pago una cazzata. Me l'ho oggetto anche la finanza. Tu a parte che tu ce ne devi cercare una in campagna. In campagna. Ma sto cercando, se la trovi in campagna, se ho pazienza. Se trovi città, voglio che ci sia che un giardinetto all'interno, dai. Però se più a terreno è meglio. Tanto mi muovo la Iane Ferro io, ma sa me. Aspetta un attimo, devo stare a chiamare. Ok. Gianni. Oh, Gianni. Un minuto, un saluto, non so la fatto. Ciao, anche a te, invece di cosa mi hai alzato. Ma la voce che l'hai, ma cosa pensi che ti trovo di dì? Biondo, tutto a posto, sì. Sì, e tu? Vabbè, sono te, aspetta, mi sto arrivando un pomeriggio, un bella radio. Da dove stai arrivando? Da dove sto mutuando? Certo, sto mutuando da Oltretopparo. Dove? Sono da assunto, va. Ok, salutiamo anche tutti qui. Qui a volta Gianni, Fiorentino e compagni. Come sto arrivando bene, va? Aspetta che forse Manuele manco di sete a te. Manuele. No, già lo sento. Ciao Marie. Ciao Fiori. Perché io sono piccolino, ho capito, Tony. Piccolo come un vicino, ma dove non è? Ecco, la mano se ne può, se ne ha riposo. Ah, riposo, si cavamo in forza d'aria, si cavamo in forza d'aria. Ok, vai, piano piano, Manuel, piano piano, vai. Stellina, ti saluto, un bacio grande, grande. Tu un bacio, glielo puoi mandare solo la mia gicetta e buh. Aspetta un attimo. Poi, calmati. Ciao, ciao, Luigi, sto dicendo. Hai capito, Manuel? No, non ho capito, lo sai? Ho detto, Stellina, un bacio grande. Quando vuoi, quando puoi andare. Saluta, va. Un bacino dove dico io, dirgli. Ok, va. Guarda, ci sentiamo in calma, va. Su che andiamo? Poi no, avanti. E cappa. Niente, c'era Gianni, è sparito, capo. Va, sicuramente, guarda, dentro poi stai iniziando a cucinare, Gianni. O sei spaventato, boh. Ma così poco, Gianni? È arrivata la fotografia del mio gioiello, boh. Oh, io, via. E allora tu, che mi racconti? E non ti racconto, dalla base all'altra mangio un macco e domani lo stesso a fare cosa. Poi alle 3:30 ho l'appuntamento con l'ortopedico, poi devo andare in agenzia, chiudo la pratica e aspettiamo i benedetti soldini. Ah, per quella pratica dell'incidente stai dicendo? Ma di quello quando sono caduto lì al Zanit, capito? Dal 2 settembre sono 46 giorni tutto. Ah, ok, va, piano piano, interessante. Interessante, risolvi tutto. Poi dammi il controllo, sia il segnale, sia il radio, se va bene. Allora io ho uno svitter che è un po' avaro, la verità, non è tarato. Io ti posso dare un Santiago di 8 qua, non di più, la radio è bella buona, 5 perfetta, però dovessi arrivare 9:10 almeno, con l'altro baracchino. Io sto usando questo e lo svitter è avaro. Ok, va, mi è contento, va, perché sei tu non contento, va. Tu mi stai arrivando lo stesso 9:05, la radio è super 5, va, già va bene. E dunque risolvi il problema, meglio così, va, anda bene. Va bene, dai, ci accontentiamo anche di quello. Avanti, Manuè. Un attimo, sto mangiando. Ehi, lui sta mangiando. Che non fatti di baraura, di farmi da baracchino, fatti di bocca magna. Ma stai mangiando, salsiccione, Manuè. Ehi, salsiccia fresca. Marì, il bello che hai detto che è dimagrito 20 kg. Mi pare che ho aumentato 20 kg. Ah, dimagrito? Vabbè, io sono apparito, sta vedendo, dunque, un po' sulle lingua. Cosa va aumentato? Vabbè, va. Sei Musani, Manuè, sei Musani, va, piano piano. Comunque, salsiccia fresca, se vuoi, già ne ho, Già, basta la mia. Ho capito, vai avanti con tuo, io lo so. Soprattutto, vai mega. Gianni, niente, Tonino, avanti. Stavo dicendo, Tonino, ma con la strada, c'è per giustato oppure bisogna fare sempre il giro? No, guarda, un attimino, io sono al telefono, dai. A dopo, ciao. Stanno via? Sono al telefono, ne ho un po'. E ok, vai tranquillo, Tonino, sentiamo, vai. Manuè, e allora, voi sei a casa? Sì, a casa, sto male, sono di riposo. Domani sono a Tokyo, lì a dopo Marisa. Guarda, come segnali che arrivano 5:30. La radio, non lo so, è un po' secondo dopo quello di sotto, capito? Proprio faccio pena a capire, comunque va, già andare. Un pianino esterno interno ce l'ha. Cosa devi fare? Si faccio una radio di tipo la faccia. Va bene, piano piano, ma noi piano piano su che andiamo, vediamo se già mi rimasto, già mi... Mari, dai, non sto bene, vi saluto, ti saluto, stai uscendo bene, c'è di radio, Santiago è 9:05, la radio è buona, bella forte, si sente che stai uscendo con quella radio. Ma io ti dico, guarda, sto uscendo con un'altra radio, tu stai uscendo 9:10, questa è una radio vecchia, io sto uscendo con un mese, io... Gian, con un mese e Johnson sto uscendo. Tu questa è la radio, come segnale, 9:10 stai arrivando. Con la radio arrivi 9:15 e sfarato. Comunque la popolazione è sempre la tua. Tutto a posto, già. Tutto a posto, nel senso che vabbè, oggi non sto bene. C'ho questa labirintite, questa da bisogno di dall'urito e mi viene il cappuccino. Guarda, io non ti dico male, boh, io mi sento, non io. Boh, sarò io, più io, scemo. sui vaccini mi stai costrando, debolezza, stanchezza, c'è un dolore di gambe, pazzesco, io non so. E non sono solo comunque, non sono solo. E vabbè, un attimo, un piano, io sto aspettando ancora la chiamata, già, ancora la chiamata. Mi ho detto 15, 20 giorni, la chiamo. Comunque entro quest'anno me ne vado, mi sposto, diciamo, me ne vado in pensione, entro quest'anno. Avanti, Manuele. Vabbè. E anche io sono sempre stanco, ma sapevi, aiuto un minuto, dammi due ore di zinco, non ti riguasso. Mai successa una cosa del genere, sempre questa stanchezza addosso. Dai, quando hai fatto il suo vaccino, Antonello me l'ha fatto. E anche io mi sembra strano, un po' strano di gambo, dopo questa, non lo so. Antonello, buonasera. Buonasera a tutti, per esclusivi. Così, diciamola. Già sto abbastanza bene. Oggi c'ho la specie di mal di testa, mi fa male tutta la fronte, la faccia. Non so cosa neanche cosa diavolo c'ho. Senosite, tutta la parte ti fa male. Proprio la fronte, la faccia. L'altro giorno sono uscito lì al centro storico, sono andato e ho chiamato Giovanna perché non mi reggevano le gambe. Poi tutto un tratto sono diventato bianco e poi mi stavo tipo collassando, capito? Infatti mi ha portato subito qua a casa Giovanna e mi ha coricato, mi ha messo direttamente a letto. E anche io ho questa labirintite, mi sono coricato, sono alzato, mi è venuto troppo giro e non riesco a stare in piedi, non mi reggo in piedi, come se fosse a butto. E quello la fa la cervicale, lo fa, faceva anche a me, capito? Devo insegnare un antinfiammatorio tipo Brufen, una cosa del genere, capito? Chi c'era vecchiaia, State invecchiando, tutti i vecchi siete. Ma Alice è diventato Finocchio. I ragazzini che stanno parlando. Ciao Gianni, ciao Marino e ciao anche Antonello. Ciao Gebe. Ciao Franco, come ha fatto? Avanti con me. Sentite, mi pare anche Natalino ci sei. Eia, sono entrato adesso. Oh yeah. Ciao Natalino, buonasera. Ben entrato. Eia. Ciao Fra, ciao Antonello, ciao chi c'è in frequenza, perché ho c'è da appena adesso e non lo so chi c'è. Ok, avanti Antonello. Oggi ci sentiamo tutti male. La sera si sente male anche il TV mio, si sente male. Tutto un tratto, cazzo controllo della OBL di quelli di Fusano, cazzo. Lo giro, cazzo, in pratica la salatura che l'avevo fatto, non ha fatto manco i soldetti a agganciarsi. Quindi poi devo segnare che spariva, riappariva, gli ho detto no, cazzo. Poi il microfono salenta lì non esce più, bisogna avere il controllo, e invece nel 2009 sta uscendo bene, esce bene. Adesso male lo apro il 140, voglio vedere cosa cazzo gli ha preso. A vedere, forse perché gli fa male il freddo la notte, cosa ne so. La vecchiaia Carrone, Antonella, la vecchiaia Carrone, stiamo da rottamare. Ah, va, domani devo fare un altro esame. Io devo farne 4 di esami ancora, non sono riuscito a trovare posto per l'appuntamento, ho capito. Quindi figurati, un po'. Adesso dopo domani ci vado. Mi copro bene, mi copro per sicurezza. E io soffro molto di cervicale, capito? Quando mi piglia mi stringe la vena, capito? E mi fa cioè quando cammino sono tranquillo, dopodiché a un certo punto sembra un luogo senza bere, tutto d'un colpo, capito? Senza bere nulla, senza nulla, tutto un tratto in pratica me la fa questa storia qua, è come se ci fosse qualche cosa che mi stia premendo dietro. Sei vecchio, Antonello, ti voglio scusare, sei vecchio, stai vecchiando tutto assieme, ok? Se tu non ho capito, ciao Natalino, come hai fatto buonasera. Mi approfitto e lo chiudo, mi stavo chiamando, ciao Gianni, ciao Natalino, ciao Franco, ciao Antonello, ciao Antonio e Sottoni, e Torino al telefono, forse c'è anche Emanuele, Emanuele. Bene, Gianni, mi prendi e ci sentiamo. Ciao Mari, ciao, buonanotte, dai, ci sentiamo. Anche io chiuso, dai, ci sentiamo ragazzi, state lui bene, ma una continuazione del crescevo che chiudo per portare il cane, dai. Ciao, ciao Mari. Proprio adesso che sto entrando io me ne state andando voi, che. Ciao a te. Il cane devo portare, tu ci vai in campagna e lo farò da su, ma io devo portare. Ciao, ciao, ciao a tutti. Ciao a te, l'ho piazzato quella cosa. Bene Mera, bene Mera, come sta andando? Ciao Tino. Ciao Appa. Tutti i capi che abbiamo collegato e compreso anche lo spinotto. Già funziona, ho visto. Anda bene, ripegnate un attimo. Vabbè, io non so che c'è, salutoni a tutti. Ho sentito una targa che ha dato il ciao, ma e poi non so chi c'è. Avanti Natalino. Sì, c'è Franco, c'è Antonello. Prima c'era Marino e Gianni, ma hanno fatto QRT. Oia, va bene, avanti Tino. Bene, bene, Franco. Ciao Tino, buonasera, ne approfitto, devo salutare anche Marino e salutoni a Gianni. Buon QRT e ce la riascolto alle prossime. Riprendi Tino. Gabba gabba. Bene, bene, ciao a tutti, ciao. No, io praticamente ero su un altro canale e poi è arrivata mia madre, stavo parlando con lei e niente, ho fatto una spottolata e ho trovato a voi e quindi mi sono soffermato qua. Hai fatto bene, hai fatto bene. Come mi ascolti, sono con l'Ecomaster. Puoi anche alzare un po' di amplificazione se vuoi. Non ti credo, se sollevo ancora di più si mette a fischiare come il treno qualcosa. Ah, adesso non lo sta facendo, strano, ma stasera sembrava un treno, sembrava. Ah, già va bene con l'amplificazione, è chiaro. Ecco, è a uno, l'ho messo, è lento, ma l'appoggio dovrebbe andare bene. Sì, Antonio, già va bene, già va bene. Se l'attacca al cavo, lo sai come fischia, cazzo, mi tocca mettergli la massa a terra, cazzo, dietro. Stasera ho messo un filo di massa a terra per non fischiare, che era l'unico modo, se no sembrava una locomotiva. Andare, andare. No, io sto provando con l'apparato AMI. E niente, l'ho acceso adesso, quindi non so quanto, come sta facendo, però sembra in positivo. Stai scendo bene, stai scendo bene, non ti preoccupare, l'unica cosa che hai detto, quando c'è voglia bisogna che li cambiamo quei tre pulsanti, tutti e tre per forza bisogna cambiarli. Sono io, buonasera. Chi è Eugenio? Buonasera. Mille mio Eugenio, mille mio. Allora, ragazzi, come va? A posto? Tutto bene, Eugenio. Come va dalle tue parti? Come sta andando questa radio? Sì, come sempre, perfetta, la grande. Come sempre. Dai, vediamo un pochino se arrendo dalle tue parti. Ma ti ha cacciato? Sì, Eugè, sì, lo sto facendo andare, dai, lo sto facendo rullare. Già lo credo, c'è una perfetta qua. Ma già va bene. Qua sei 9.25 con le 4.000, che sto usando in questo momento. Bene, bene, bene, bene, sono contento allora, dai. Anch'io, non salto di nulla, bello quello, quindi sei perfetto, senza saturazione, senza nulla. Natale, riprendi. Sto parlando con la 50, ma... Andare, andare. Finito la Eugenia. Sì, ho finito finalmente, ma mi manca poco per finire tutto. Capito? Cambio lavoro. Davvero? Quello che stai facendo tu chi lo fa? Sto dimenticando primo contratto. Sono sei ragazzi che mi sono preso per militare. Ho capito, dai. E tu dirigi la carrozza però? Faccio una cosa di quel servizio, diciamo di sì, dai. Allora già va bene, dai, già va bene. Sono contento, dai. Quindi sono questi turni maledetti. Non la faccio più. Fai le notti, le mattine, o casi. Non ce la faccio più. In fondo il turno normale, tranquillo. Il sabato domenica non lavoro più. È anche un, buon riposo, dai, già è meglio così, è sacrificante, è vero che è ben retribuito, però insomma è sacrificante, è così. Ma domani dovrei andare all'Asinara, domani dobbiamo imbarcarci, non c'è traghetto, quindi ci prendiamo una barca a Nolo e vediamo come esce. C'è un po' di maletta, vero? Ma no, forse domani gira un po' il maestrale. Partiremo dall'Ancora e dovremo attraccare lì a Calarivo, e poi il rientro però sarà differente. Vediamo, andare anche quello che ho fatto. Ma ti accompagna gente, insomma, gente che è già uscita a mare, sì. Non è bisogno di provvigioni di consiglio. No, ma, vabbè, io non mi ricordo il cognome, però uno ve lo fa di mestiere lì a Trentino. Ah, dai, siete tranquilli, se lo fa per mestiere già lo stadio cosa fare da un fatto. Ma perché magari se vi avventurate, non siete mai usciti a mare, è un problema, Già lo so. No, vabbè, io già ho navigato qualche volta, però lì è differente perché trovi le muove, trovi insomma quant'altro. No, ma questo qua è, lo fa il lavoro, quindi siamo a posto, dai. Andiamo. La comunità europea, se tu gli dai il vecchio smartphone rotto, ti dà un premio in denaro. Cosa mi dai? Lo so, ragazzi, in quanto arrivo? Ah, non lo so, adesso l'ho visto nel telefonino. L'Unione Europea darà premi in denaro a chi consegna i vecchi smartphone. Adesso le vedi gente andando a cercare nella montezza, o da Portobello. Ci ho detto 50 a 100 euro, vabbè. Cosa vuoi? Scusate ragazzi, devo uscire. Quello che recupero già lo sai che oro dentro, ce n'è un grammo e mezzo, mi sembra che ce ne sia, in tutti gli smartphone, quindi ha voglia. Ci buttano la roba vecchia e recuperano tutto l'oro, capito? E i componenti elettronici, quelli buoni. Marina, guarda che Tino è uscito, è voluto uscire. Marina, non ti regala più nessuno, voli. Io già l'avevo telefonino una volta, non smartphone, ma di quel modello vecchio, li ho regalati tutti, a un tipo. Ho detto, fa una cosa, ho detto, non voglio più vedere questi telefoni qua, dove se tu sei, ti vuoi divertire, smontateli, recuperati loro e fai quello che voglio, ho detto. Vabbè, signori, io ti saluto di nuovo, adesso ci sentiamo un po' più spesso, dai, non faccio più questi tracci, fa un po'. Ci troviamo più spesso. Va bene signori, hasta luego, la mia radio va sempre di lusso, certo, va bene, sì. Ah, voi riesci bene, sei perfetto. Nonostante l'abbia appena scelta, comunque vai. Grazie ci siete ragazzi, ciao e buona serata a tutti, buonasera, che io vado a masticare. Ciao! Ciao, ci sentiamo alle prossime, stai bene. Beh, Antonio. Carrone, io me la chiudo, là. Ciao a tutti, correti per me, ciao Franco, ciao Tino e quelli che sono in ascolto. Io me la chiudo, che sono stanco, non ne ho voglia. Ci sentiamo alle prossime, là. Ciao Natale, ci sentiamo con quelli con tutto e alle prossime, va bene? Ma Tino Natale lo volevo dire, lui.